Letture di Radio 24. Due storici tedeschi ricostruiscono con un libro i dialoghi dei soldati della Wehrmacht mentre esultavano delle loro azioni sanguinarie durante la guerra hitleriana. Il libro sfata il mito della Wehrmacht implacabile ma pulita, contrapposto alla crudeltà di SS e Gestapo. In Italia, in ogni luogo dove arrivavamo, il tenente ci diceva sempre: cominciate ad ammazzarne un po'. Io parlavo italiano, avevo compiti speciali. Conversazione quotidiana tra un caporalmaggiore della Wehrmacht e un suo compagno di prigionia, registrata dai servizi segreti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Citando e narrando questi documenti, un libro di imminente uscita in Germania racconta con la precisa freddezza degli storici una realtà agghiacciante che i tedeschi del dopoguerra, nelle due Germanie e dopo la riunificazione, avevano amato rimuovere. La Wehrmacht non fu l'esercito implacabile, ma pulito e cavalleresco. Fu, nell'animo collettivo, pieno complice sia dell'olocausto sia dei crimini di guerra. Soldati, protocolli del combattere, dell'uccidere e del morire, si intitola il libro degli storici Schoenke-Neisel ed Harald Welzer, in uscita per i tipi della Fischer Verlag di Francoforte. Un documento nuovo, testimonianza dell'onestà spietata con se stessi con cui i nuovi tedeschi guardano alla loro storia. Per anni, Neisel e Welzer hanno studiato oltre 150.000 pagine di archivi dell'Intelligence Service britannico e dello OSS americano. Erano le registrazioni dattiloscritte dei colloqui tra prigionieri tedeschi selezionati a caso dai servizi alleati. I britannici effettuarono l'operazione soprattutto a Trent Park, concentrandosi sugli ufficiali, gli americani a Fort Hunt, privilegiando soldati semplici e graduati. Volevano capire la psicologia del nemico, scoprirono l'orrore. Ignari d'essere ascoltati, soldati e ufficiali della Wehrmacht parlavano liberamente. Si vantavano a gara tra chi era stato più spavaldo e spietato. In un villaggio in Russia c'erano partigiani. È chiaro che dovevamo fare terra bruciata. Uccidemmo donne, bambini, tutto e tutti, dice un soldato a un altro. Oppure, ricordando l'aggressione alla Polonia, bombardavamo e mitragliavamo a volo radente attorno a Poznan. Volevamo fare tutto il possibile con le mitragliatrici di bordo. La gente non mi faceva pena, ma uccidemmo anche cavalli. Per i cavalli fui dispiaciuto fino all'ultimo giorno. 18 milioni di uomini, 4 uomini tedeschi adulti su 10, servirono nella Wehrmacht. Queste conversazioni di prigionia tra gente comune, non tra nazisti convinti prescelti nella SS, narrano l'adesione spontanea alla guerra totale hitleriana. Torniamo ai massacri in Italia. Il tenente ci diceva: ammazzatene 20, così avremo un po' di pace. Alla minima loro sciocchezza, via altri 50. Ratatatata, con le mitragliatrici. Lui urlava: crepate maiali. Odiava gli italiani con rabbia. Anche altrove. In Caucaso, se uccidevano uno di noi, il tenente non aveva bisogno di impartire ordini. Pistole pronte, donne, bambini, tutto quello che vedevamo, via. Il raptus sterminatore non contagiava solo fanti, bensì anche marinai del Reichskriegsmarine e i piloti della Luftwaffe, tanto mitizzati come cavalieri dell'aria. Col nostro U-boat affondammo un cargo trasporta bambini, dice il marinaio Solm nel 1943 a un compagno di prigionia. Tutti affogati? Sì, tutti. E la nave? 6.000 tonnellate. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I racconti shock dei nazisti, di Andrea Tarquini, dalla Repubblica di lunedì 4 aprile. Letture di Radio 24. Da uno studio internazionale della HBSC Italia 2010 emerge il fatto che agli studenti italiani la scuola proprio non piace. Quali sono le ragioni di questa disaffezione e quali potrebbero essere i rimedi? Luigi Ballerini, sull'Avvenire, prova a dare qualche indicazione. Ai ragazzi italiani la scuola non piace, o almeno così pare, stando all'indagine HBSC Italia 2010, uno studio multicentrico internazionale condotto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Vi partecipano 43 paesi su 53 stati membri e l'Italia ha iniziato la collaborazione nel 2000. Il campione esaminato di 77.000 ragazzi italiani di prima e terza media e di seconda superiore è considerato rappresentativo di tutte le regioni e di realtà sia statali sia paritarie. A loro è stato somministrato un questionario anonimo con la specifica richiesta di esprimersi sul gradimento della scuola, da «mi piace molto» a «non mi piace per niente». A livello nazionale risaltano tre macrodati. Il gradimento diminuisce al crescere dell'età. Ai maschi la scuola piace meno che alle femmine e non vi sono significative differenze regionali. In prima media, al 25% dei ragazzi e al 34,5% delle ragazze la scuola piace molto, contro il 6,7% dei maschi e il 10,8% delle femmine in seconda superiore. Con questi dati ci collochiamo pesantemente sotto la media internazionale, al quartultimo posto per il livello di gradimento dei quindicenni su 41 paesi. Oltre al quadro descritto dall'indagine, ciò che preoccupa davvero è la strada che potrebbe prendere la scuola nel tentativo di risolvere la situazione. Due, infatti, sono le principali tentazioni che la metterebbero su una falsa strada. Buttarsi sul cosiddetto edutainment e diventare una scuola 2.0. Edutainment è una parola magica, assai di moda, che coniuga education con entertainment. No ai vecchi argomenti noiosi e paludati col loro studio tradizionale, sia materie nuove, diverse, con un frizzante stile di insegnamento che renda tutto divertente. Si corre così il rischio di prolungare l'esperienza della scuola materna in un irrispettoso processo di infantilizzazione dei ragazzi. La scuola 2.0 è poi quella che vive dell'illusione che sarà solo la tecnologia e i suoi richiami a destare dal sonno mattutino i ragazzi sui banchi. Le aule si devono allora riempire di lavagne multimediali. Per i professori è un must avere un profilo Facebook e via i vecchi libri per lasciare posto al web o al massimo a un iPad di ultima generazione su cui caricare tutto. Una posizione ingenua questa. Più che la lavagna conta infatti quello che ci scriviamo sopra. Il giovanilismo dei professori non dovrebbe certo essere preso come sinonimo di vicinanza ai ragazzi e i libri non possono diventare solo nemici polverosi che piegano la schiena dentro gli zaini. Un ragazzo potrà davvero dire alla scuola «mi piace», senza necessariamente sbilanciarsi con «molto», quando riuscirà a trovare una corrispondenza tra sé e ciò che viene offerto, ossia quando scoprirà un reale guadagno nell'andarci. Gli piacerà quando si accorgerà che si tratta di un luogo che può suscitargli un'idea nuova che non c'era prima, che soddisfa una curiosità che forse nessuno riconosceva, che il suo interesse è un successo, piuttosto che un presupposto. I giovani aderiscono volentieri a quelle situazioni in cui vengono riconosciuti come pensanti, capaci di orientare il proprio moto in associazione con un altro per una soddisfazione reciproca. Se glielo permettiamo, sanno sorprenderci con la loro apertura. Perché la scuola torni davvero a piacere, o inizi finalmente a farlo, occorre pertanto che resista alla tentazione di una fideistica modernizzazione o di un accattivante snaturamento. Potrà così proporsi come un luogo capace di incontrare e sollecitare i desideri dei più giovani, favorendo esperienze reali con le discipline, in modo da aprire prospettive forse solo intuite, certo desiderabili e desiderate. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «La scuola che non piace e le ricette che non la salvano» di Luigi Ballerini, dall'Avvenire di martedì 12 aprile. Una ricerca italiana rivela che quasi 1 milione di nonne soffre di solitudine perché isolate dalla società e spesso abbandonate anche dai parenti più stretti. È la sindrome di Penelope a prendere il sopravvento quando si aspetta qualcosa che non arriverà mai. Infelici come Penelope, che si struggeva nella nostalgia e nella tristezza, aspettano qualcosa che non arriverà mai. Oggi il dolore e l'attesa solitaria che hanno accompagnato la moglie dell'eroe greco sono il vivere quotidiano di oltre 700.000 italiane con oltre 75 anni, affette dalla sindrome che prende il nome proprio dall'eroina raccontata da Omero. Donne rimaste spesso vedove, sole, malate di nostalgia del tempo passato, che non guariscono mai dal loro dolore fisico perché lo alimentano con il malessere psicologico. La sindrome di Penelope riguarda ormai una donna oltre 75enne su 5, secondo uno studio dell'Università di Messina presentato al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Queste nonne, se ricoverate per una patologia acuta, poi preferiscono restare in ospedale piuttosto che tornare alla solitudine della loro casa. Inoltre soffrono spesso di ipertensione e sono particolarmente fragili, quindi ad alto rischio di fratture e disabilità, immobilità. Si tratta di donne malate di attesa di affetti e legami, come la vera Penelope, spiega Marco Trabucchi, presidente dell'AIP. Un'attesa che si prolunga nel tempo e che sanno inconsciamente sarà senza fine. Alcune donne malate, prosegue il presidente dell'AIP, guardano al domani con l'angoscia della solitudine e la paura del vuoto, sapendo di avere di fronte una vita che tende a durare sempre di più, ma sarà piena solo di acciacchi, pillole e cure, di medici e di infermieri. Sono questi gli unici che danno senso all'attesa di Penelope. Nel mondo pieno di presenze senza senso, Penelope pensa al suo Ulisse e lo cerca nel vuoto. La ricerca ha coinvolto 100 anziani con più di 75 anni, dimessi dall'ospedale dopo un ricovero per patologia acuta. Tutti sono stati valutati per misurarne il grado di depressione, la presenza di dolore e il livello di fragilità. In una paziente di sesso femminile su 5 sono stati rilevati i segni della sindrome di Penelope, ovvero depressione e dolore, riferisce Trabucchi. La prevalenza della depressione nelle anziane era attorno al 70%, mentre fra gli uomini si attestava a circa il 40%. Anche il dolore è risultato più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Un dolore intenso, che interferisce con le attività quotidiane e peggiora anche la vita di relazione ed emotiva delle pazienti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quasi un milione di nonne soffre di solitudine, pubblicato da Il Giornale di lunedì 11 aprile.